7. Ascolta e indica il soggetto. Signore, preferisce aspettare in sala d'attesa? 1. Leggono solo giornali inglesi. 2. Non partiamo stasera. Partiamo domani. 3. Aprite un conto corrente? 4. Finisci di lavorare a mezzogiorno? 5. Chi aspetta? 6. Aspetta un amico. 7. Non vedo bene lo schermo.